Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno e benvenuti. Pensate a una vostra giornata tipo, ieri ad esempio, complessivamente, che ritmo avete tenuto? Veloce, lento, alternato? Adesso immaginate la giornata come un percorso di gara in cui voi siete l'atleta. Benissimo, chi siete? Un velocista, un fondista o un ostacolista? Provo con un altro stimolo, siete lepri o tartarughe? Quando, in quali situazioni, nel lavoro, in amore, con gli amici, nello sport? Prendetevi pure tempo o rispondete d'impulso a queste domande? Ecco qui un altro stimolo che ha a che fare con velocità e lentezza, il tema di cui parleremo oggi. Agite d'impulso o contate sino a 10? In ogni caso, lenti o veloci, chiamate il nostro numero verde 800 24 00 24. In linea con noi la dottoressa Monica Piccinni, psicologa e psicoterapeuta. Buongiorno dottoressa. Buongiorno Nicoletta e buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Sì, hai fatto delle domande molto importanti. Queste semplici domande sicuramente ci portano a verificare se il ritmo a cui andiamo, la nostra andatura nella vita, è in sintonia con noi, con il modo in cui siamo. Se è qualcosa che ci aiuta nella vita o eventualmente ci frena. La prima domanda sostanzialmente ci aiuta a capire quello che ci impone la vita di tutti i giorni. La seconda, forse quella che hai fatto, ci dice come vorremmo essere nella vita di tutti i giorni, cioè se andare in velocità oppure se prenderci dei tempi, quindi se essere un pochino più lenti. La terza naturalmente ci dà delle indicazioni sul nostro modo di funzionare nella vita, sul nostro modello di funzionamento. C'è un'altra domanda però importante che mi piacerebbe fare, chiediamoci anche se nella nostra vita, le nostre esperienze quotidiane, per esempio, gli eventi che abbiamo vissuto ci portano eventualmente a modificare il nostro ritmo, quindi a diventare magari un po' più lepri, come dicevi tu, piuttosto che un po' più tartarughe, quindi andare veloci o un filino più lente, più calme. E proprio l'hashtag di oggi l'abbiamo scelto, è proprio lepre tartaruga, dottoressa Piccinni. Esatto. Tieni conto che si tratta sempre un po' di temperamento, temperamento e carattere, che sono dei termini che servono per indicare diciamo l'insieme delle caratteristiche personali che esprimono il nostro modo di sentire, percepire, pensare e ad agire nella nostra vita quotidiana. Cioè, ne abbiamo diversi tipi, naturalmente ognuno di noi ha un temperamento e un carattere che insieme poi all'interazione dei fattori ambientali, cioè di quello che ci succede nella vita, forma la nostra personalità, cioè il modo in cui poi procediamo. Allora, dottoressa Piccinni, noi facciamo così, chiediamo ai nostri ascoltatori di provare a rispondersi, di prendere tempo, magari qualcuno l'ha già fatto subito, alle domande che abbiamo proposto in apertura, le abbiamo messe anche sulla nostra pagina Facebook e a chiusura di trasmissione raccoglieremo le domande degli ascoltatori che vogliono partecipare a questo test e lei riuscirà a dare una sorta di profilo e quindi ci aiuterà a capire se l'andatura che abbiamo nella vita ci fa bene o dovremmo magari rallentarla un po' o accelerarla, insomma cercare una via di mezzo tra lepre e tartaruga, che poi è sempre la formula vincente. Benissimo, sì, ci proviamo, anche perché naturalmente ognuno ha uno stile personale che agisce nella quotidianità, ma alcune volte questo stile può determinare naturalmente una buona funzionalità o magari anche una funzionalità con dei contrasti. Vediamo se riusciamo a dare dei profili dei nostri ascoltatori, va bene? Grazie dottoressa Piccinni, noi ci sentiamo dopo, 800 24 00 24, lepri, tartarughe, velocisti, ostacolisti, a voi! La lepre e la tartaruga. Pronti? Attenti! Via! La lepre sfrecciò via avvolgendo la tartaruga in una nuvola di polvere. E mentre la tartaruga cominciava a muoversi pian pianino, si era già persa di vista. Con un gran balzo si lanciò verso la linea d'arrivo per andare a ritirare il premio. Ma con suo grande scorno, chi vide da lontano? Proprio la sciocca tartaruga che piano piano attraversava la linea del traguardo mentre la bandierina veniva abbassata. La tartaruga aveva vinto. Velocità e lentezza, due tendenze necessarie di cui si nutre il ritmo che, come sappiamo, lo dice quasi la parola stessa, presuppone variazioni, accelerazioni, pause, rallentamenti, riprese. Ci sono persone che indubbiamente sono o sembrano veloci di testa, altre più di piede. C'è chi è molto rapido con la parola, chi più con il gesto. Tutti vorremmo però essere veloci di testa e brillanti, capaci di fare collegamenti, risolvere problemi, prendere decisioni rapide. Ma anche chi pratica sport, alcuni sport, punta ad essere veloce. Ma cosa è meglio per noi? Dipende, dipende, de che dipende. De según como se mire todo depende, depende, de qué depende, de según como se mire todo depende. Sí, dipende, ma l'importante è avere il ritmo giusto, adatto al momento e alla situazione. Qui in studio con me il professor Stefano Tirelli, docente di tecniche complementari sportive alla Facoltà di Scienze Motorie dell'Università Cattolica di Milano. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta, a tutti gli ascoltatori. Dipende, è molto bello come termine, perché ci connette anche al concetto di relatività. È tutto relativo. In effetti, pensando un po' anche al discorso così del significato della via di mezzo, no? Allora, o l'uno o l'altro, scegliere ciò che per noi a livello di attività motoria potrebbe essere la cosa migliore, l'attività sportiva migliore. Beh, allora mi viene in mente un po' quello che in medicina cinese e non solo, anche proprio nei vocaboli della lingua cinese viene definito come la via di mezzo, così così. Cioè noi a volte per dire cosa possiamo fare, che tipo di sport, noi diciamo ma analizziamo, potrebbe essere questo, potrebbe essere quello. Loro per dire così così dicono cavallo cavallo, tigre tigre. E quindi è molto carina questa cosa, perché se pensiamo all'attività specifica, all'immaginazione che abbiamo della figura del cavallo, possiamo pensare alla velocità. La nostra lepre. È chiaramente una simbologia importante, perché ci riporta veramente alla massima libertà, alla velocità totale. Mentre per i cinesi la tigre è un animale molto guardingo, no? Prima osserva, cerca di analizzare come, quando afferrare la preda, e poi dopo c'è uno scatto felino. Ecco, l'importante è che poi ci sia lo scatto, no? Perché se c'è sempre solo l'analisi, l'attesa, la tigre può anche morire di fame. E però ecco, è molto bella questa, perché ci dice che in effetti ognuno di noi ha una prevalenza, il che non vuol dire che non ha anche l'altra attitudine, sia a livello mentale ma anche a livello motorio. Non è che il velocista non abbia la capacità anche di protrarre un certo tipo di azione nel lungo periodo e viceversa. Però è importante ricollegarci anche a un fattore importante. Quale? Quello che ogni cultura in questo mondo ha una sua così comune assonanza con le altre. Noi in Occidente parliamo di attività aerobica o anaerobica, parliamo di metabolismo specifico, magari di maggior catabolismo o di maggior attività anabolica, cioè uno distrugge di più e l'altro costruisce di più. In medicina cinese, ma nello sport in Cina, si dice un soggetto atleta è più yang e quindi è più catabolico, okay? Consuma di più, e l'altro è un soggetto più yin, più anabolico, tende a conservare maggiormente. E quindi è tutta una questione di costituzione e di tipologie, anche di costituzione fisica però. Sì, sì, la costituzione fisica, per esempio, quando noi osserviamo un atleta ed è, come si suol dire in gergo comune, molto nervoso, quindi dei fasci muscolari fusiformi, quindi una caratteristica di assenza quasi proprio di minimo strato adiposo, questo è un soggetto che ha un tipo di metabolismo sicuramente maggiormente proiettato verso la maggior capacità catabolica, cioè quella di consumare. Io per esempio brucia di più. Ma sì, faccio anche un esempio in tanti anni passati, anche oltre che nel calcio, nel basket. Io ricordo che tanto tempo fa, era circa il 96, avevo un atleta, Gregor Fucka, nella allora Olimpia Milano Basket, che era magrissimo. Lui consumava, mangiava, ma aveva per esempio una necessità diciamo fisiologica, sì, okay? Quotidiana, immediata, non appena mangiava. Ma questo non voleva dire che fosse un atleta debole, anzi era un atleta con una sua forza dinamica, tecnica, che l'ha reso uno dei più grandi giocatori di basket di tutti i tempi. Professor Tirelli, tornerei all'attività sportiva, perché lei ha sottolineato quanto la Costituzione e le differenze di tipologia possono aiutare, e allora forse c'è qualche ascoltatore che ha preso in questi giorni la grande decisione o sta vagliando quale attività fare per ritornare a muoversi. Possiamo aiutarlo? Quali informazioni è necessario che ci dia? Intanto ricordiamo il nostro numero verde 800 24 00 24. Oggi esploriamo proprio queste due dimensioni, velocità e lentezza, e lo faremo in diversi ambiti, sotto il profilo psicologico, sotto il profilo motorio e non solo. Professor Tirelli. Beh, allora ci potrebbero così segnalare alcune informazioni, se detto molto così, terra terra, se si stancano facilmente oppure se si sentono delle persone che hanno necessità, voglia di scattare, di fare, di correre velocemente. Questi sono i primi due elementi di informazione. Però questi, ovviamente, io vorrei magari dare un aiuto loro parlando un attimo, ma proprio un minuto, di un aspetto che sappiamo tutti. Quindi quali sono le fibre muscolari che ci caratterizzano? Sono principalmente i tre tipi. Abbiamo cellule, quindi in generale in base alla velocità di contrazione, e cellule in base alla resistenza alla fatica. Quindi veloci e lenti. Però veloci con caratteristiche positive e negative, resistenti con caratteristiche positive e negative altrettanto. In quanto abbiamo fibre bianche rapide, che sono principalmente quelle reclutate nelle azioni rapide, intense, e al loro interno ci sono molti enzimi tipici del metabolismo anaerobico lattacido e del metabolismo glicolitico, cioè quello per esempio dello sprinter, in cui non deve andare a reclutare per lungo termine delle fonti di energia, eccetera, eccetera. Poi queste fibre sono interessanti perché sono innervate da motoneuroni alfa, che sono i più grandi, quindi una capacità di comando dal cervello al muscolo fortissimo, velocissimo. Sono specializzati proprio nella trasmissione veloce di impulsi nervosi, hanno un ridotto contenuto di mioglobina, per questo sono meno resistenti, hanno un ridotto contenuto di mitocondri, quindi di quegli elementi intracellulari capaci di produrre energia per lungo termine, e il problema è che si affaticano rapidamente. Poi abbiamo un altro tipo, intermedio di fibre, tra quelle bianche e quelle che vedremo rosse. Sono le fibre leggermente meno veloci, ma dotate di maggior resistenza, quindi proprio una via di mezzo. Sono dette proprio di tipo 2A o fibre intermedie. Sono allenabili, e questa è una cosa buona, poi vedremo perché. Perché? Poi vedremo perché, in quanto avremo noi delle, diciamo, fibre geneticamente predisposte, però è altrettanto vero che l'allenamento le può anche modificare per un certo verso e per una certa quantità. Ultima cosa, le fibre rosse a contrazione lenta sono quelle dei muscoli tonici, sono reclutate durante azioni muscolari di scarsa entità ma di lunga durata. Contengono molto più glicogeno, concentrano gli enzimi associati al metabolismo aerobico, quindi quello per esempio della maratona, del fondo, eccetera. Contengono più mitocondri, con maggior dimensione tra l'altro rispetto a quelle bianche, e contengono un maggior numero di capillari per ogni singola fibra, eccetera. Quindi queste sono le tre situazioni che ci caratterizzano a livello metabolico funzionale. 800 24 00 24. E a proposito di velocità, professor Tirelli, comunque indipendentemente dalle fibre, quelle bianche, quelle rosse, quelle a metà e metà, no, che non sono né fibra né carne né pesce, possiamo allenare la velocità. E c'è un test che offriva ai suoi atleti. Sì, per esempio, ricordo un test che divertiva molto, per esempio, gli atleti della nazionale di calcio inglese. Allora, se diverte anche gli ascoltatori di Radio 24. Possiamo farlo anche, diciamo, immaginando di farlo a coppie, no? Compagno, compagna, amico, amico. Uno è di fronte all'altro. Sono qua. Ok. Io dico al mio atleta di fronte a me che se dico il numero pari, ovviamente tipo 4, lui dovrà immediatamente scattare verso la sua sinistra. Se dico un numero dispari, lui dovrà scattare immediatamente verso destra. La cosa carina è poi quando si fa in tre, perché se si mettono l'uno di fianco all'altro e io dico i numeri, spesso si scontrano. E questo è divertente. Ricordo per esempio Wayne Rooney piuttosto che Steven Gerrard, che si scontravano spesso. A testate. Sì, Wayne Rooney è un classico giocatore di fibre veloci, scattanti. Sì. Anzi, ha un tipo di fibra che poi vorrei fare un piccolo così un test agli ascoltatori, sì, che si chiamerà forza puntini puntini, mentre l'altro è un altro tipo di fibra, un po' più lenta. Allora io praticamente dico 421, ovviamente la persona di fronte a me dovrà andare verso destra, quindi è ciò che è dispari è destra. Se all'interno di 10 tentativi ne avrà sbagliati meno di 3, generalmente si percepisce che la personalità neurofisiologica dell'atleta è più predisposta verso attività molto veloci, sì, perché molto spesso l'attività cognitiva di apprendimento veloce si associa anche a quella che è l'espressione funzionale motoria. Un'altra cosa che potrei fare, non so, ai radioascoltatori in questo momento, sperando che non stiano guidando magari, per non evitare che non tolgano la concentrazione dalla guida, io posso dire velocemente 10 numeri. Dai, proviamo. Allora, in questo caso, io vorrei dire, di questi 10 numeri, mi dovete dire quanti sono i numeri pari che ho detto. Attenzione, vada. Ok? 121, 1123, 418. 724, 11, 123, 8543, 1233, 45, 652. Allora, 800240024 dal numero di numeri pari che avete indovinato, il professor Tirelli vi dirà che cosa, professore, se siete abbastanza veloci. Sì, questo è un gioco esercizio. Ripeto, un gioco esercizio, sottolineiamo gioco. Sì, sottolineiamo gioco perché chiaramente scientificamente non ci può dare, però è un gioco che predispone la persona a capire se è molto reattiva mentalmente, come dicevo poc'anzi, anche successivamente, anche da un punto di vista delle espressioni motorie. A proposito di espressioni motorie, di attività fisica, è l'intensità anche che può fare la differenza, è quel fattore che trasforma l'attività fisica fine a se stessa, seppur gradevole, nell'attività fisica che fa bene a noi. In linea con noi abbiamo la professoressa Daniela Lucini, associata all'Università di Milano e responsabile della sezione di medicina dell'esercizio Humanitas. Buongiorno professoressa, bentornata. Buongiorno, buongiorno. Muoviti, muoviti. E allora muoviti, muoviti. Comincia a muoverti, muoviti. E allora muoviti, muoviti. Oh yeah. Professoressa Lucini, non basta muoversi per avere risultati e benefici. L'attività fisica tante volte è stata paragonata ad un farmaco. Bene, se è vero che è un farmaco, è vero anche che ha una sua posologia, quindi guai a non rispettarla. Le dosi sono importanti. Esatto, esattamente. Quando noi parliamo di attività fisica, in particolare quando ci riferiamo a quella che normalmente noi chiamiamo attività aerobiche, poi magari vediamo bene di cosa si tratta, dobbiamo rispettare una certa posologia. Cioè, che cosa significa? Significa che l'attività fisica deve essere eseguita a una determinata intensità, che vuol dire che fatica sto facendo, a una determinata durata, per quanto tempo la faccio, a una determinata frequenza, quante volte alla settimana. E poi diventa logicamente importante anche quella che poi magari vedremo dopo, essere la progressione, cioè come faccio io che sono disallenato ad arrivare a quelli che sono i livelli consigliati per far che cosa? Per star meglio, per ridurre la mortalità per varie patologie, ad esempio per ridurre il rischio cardiovascolare, eccetera, che corrisponde proprio a quei famosi che ormai sanno tutti, 30 minuti di attività fisica al giorno di tipo aerobico ad intensità moderata tutti i giorni della settimana. Chiaro che sì, l'intensità è la cosa un po' più difficile da certo capire. È certo, perché si fa fatica. Perché uno e si fa anche fatica da sopportare. Ma è come faccio a misurare questa fatica? Questa è la domanda che molti pazienti poi fanno, no? Ma noi abbiamo una risposta. Abbiamo una risposta. Eccola qua. Allora, come fare a misurare l'intensità? Andiamo. Ci sono vari modi, eh? Partiamo dai modi quelli un pochettino più semplici, quelli che chiunque può fare. Sì. Quello che si dice di essere più semplice è proprio percepire la fatica che noi facciamo. E si dice che l'attività moderata, ad esempio camminare ad intensità moderata, corrisponde al passo veloce quando una persona si sente, quando cammina, è un pochettino sudata, fa un po' di fatica ma non troppa, ad esempio si dice si riesce a parlare ma non a camminare, non a cantare. Avete presente, nei film fa sempre vedere i Marines che corrono e cantano insieme, una delle cose più difficili che ci sono da fare. Noi ci dobbiamo accontentare di camminare a passo veloce e riuscire a parlare. Un altro modo sempre facile, proprio per quantificare questa fatica, è una scala soggettiva della fatica, si chiama scala di Borg modificata, dove è modificata e si usa una scala che va da 0 a 10. Se io come a scuola prendo la sufficienza, cioè se penso che 10 è il massimo della fatica che posso fare, un'intensità moderata è intorno ai 6, quindi un po' così. Se invece poi vogliamo andare veramente in quello che è il modo reale per quantificarla, quando si fanno le prescrizioni vere e proprie... Qui dobbiamo prendere carta e penna, almeno la calcolatrice, giusto? Allora, professoressa, intanto che i nostri ascoltatori prendono la calcolatrice o basta un foglio e penna, prima di dare la linea ai mercati, vorrei sentire Gianfranco che ci chiama da Roma. Buongiorno. Gianfranco è sparito e andiamo a Tiziano da Lucca. Buongiorno Tiziano. Buongiorno. Tiziano. Ci sono. Eccola, sì. Anche noi ci siamo. Prima dei mercati, vada. Ho chiamato per dare una risposta alla domanda di prima. Io ho calcolato tre numeri pari. E ha vinto la medaglia d'oro. Perché, ecco. Perché erano proprio tre, quindi a Tiziano è uno sprinter. È uno sprinter. Tiziano, lei si sente sprinter o anche un po' tartarughino? No, in effetti ho più una predisposizione per la velocità, quello sì, però sì, anche resistenza, qualcosa faccio, sì, però sì, come dicevamo prima. Poi è anche un po' il discorso matematico forse che aiuta, una maggiore predisposizione per, certo, per la matematica, per i numeri, pure se uno sta attento e conta era abbastanza facile, c'era anche un trucchetto. Sì, ecco, appunto, Tiziano, ovvio. Però lei è stato rapido e veloce, io un libretto della libreria di Essere Benessere glielo faccio arrivare a casa, mercati e meteo, e la professoressa Lucini poi ci svelerà la formula efficace, giusta, perfetta per misurare la nostra intensità. Essere Benessere. Ma qual è il nostro massimo? Professoressa Lucini. Ecco. Allora, stavamo dicendo, l'intensità, come faccio? Uno dei modi più semplici, per modo di dire, ma in realtà vedremo che poi è anche semplice, è quello di andare a tener presente quella che è la frequenza cardiaca, la nostra frequenza cardiaca, a quanti, diciamo così, quanti battiti il nostro cuore fa in un minuto. Perché questo? Perché questo, diciamo così, correla con altri dati un po' più complicati che hanno a che fare con la capacità di esercizio, il consumo di ossigeno. Bene, allora, la prima cosa da dire è questa. Noi possiamo calcolare la frequenza cardiaca cosiddetta allenante in due modi: o avendo dei dati veramente personalizzati, e qui abbiamo bisogno di conoscere due parametri, la frequenza cardiaca che il nostro cuore raggiunge quando fa uno sforzo massimale, e quindi qui dobbiamo fare un ECG da sforzo, un test cardiopolmonare, e la nostra frequenza cardiaca di base. Viceversa, se non abbiamo questi dati, si può ricorrere a delle formule, a delle tabelle che, diciamo subito, possono andar bene se una persona sta bene e soprattutto non prende dei farmaci e non ha malattie di tipo cardiologico. Dire, ci sono farmaci come beta bloccanti che falsano tutte queste tabelle. Quali, quindi, con questa premessa che noi sottolineiamo bene, andiamo alla formula. Andiamo alla formulina. Allora, se io ho la mia frequenza cardiaca massimale, la formulina è questa. Io prendo la mia frequenza cardiaca massimale meno, cioè sottraggo la mia frequenza cardiaca a riposo, del numero che io ottengo calcolo circa il 60%, al numero a cui arrivo aggiungo la mia frequenza cardiaca a riposo. Il numero che ottengo è la frequenza cardiaca che io dovrei seguire se voglio fare uno sforzo di tipo moderato, cioè di quello di cui stavamo parlando prima, che è quello che ci va bene per dimagrire. Per questo bisogna essere veloci o avere il calcolatore, ma c'è anche una formula, professoressa Lucini, banale, che per me è quella migliore, perché è più semplice con e tutti possiamo farla. Detto prima, che è per calcolare la massimale teorica, si fa 220 meno l'età della persona, e di questo numero si sta intorno al 50-70%. Perfetto. Per cui non so, se io ho una persona di 50 anni, facciamo un esempio, mi deve stare intorno al 100-115 battiti al minuto mentre sta camminando, camminando a passo veloce, andando in bici, eccetera, eccetera. Perché il calcolo è 220 meno l'età, in questo caso 50 anni, esatto, che è uguale a 170. Il 60% di 170 è 102. Sto intorno a quel range che ci siamo. E il 70 è 119, quindi esatto. Ritorna, ricordate quindi 220 meno la vostra età, di questo numero calcolate il 60 o il 70% e state lì in quello spazio. Ma attenzione, se si sta bene non si hanno problemi di cuore e non si prendono dei farmaci. Andiamo a Vincenzo dalla provincia di Latina. Buongiorno, 800 24 0024. Vincenzo, abbassi la radio perché c'è Peter Bescapè che ci sgrida. La radio è spenta. Bravo, poi la riaccende. Mi dica, Vincenzo. No, niente, volevo sapere solo questo. Io attualmente faccio col tabirulan un'ora. Alla media di 4 km all'ora. Volevo sapere, io ho 55 anni, se faccio bene oppure... Faccio bene o faccio male, o faccio benino, più velocino, più lepre. Professor Tirelli, lei ha capito? E anche in questo caso dipende il termine giusto, perché bisogna capire se lo fa tutti i giorni, innanzitutto. Tre volte alla settimana. Ok, se le sue condizioni di salute sono ottimali, a quel punto, se lo fossero, io proporrei di elevare di un poco anche, cioè arrivare a 4,5 km, che è una velocità pari ad un cammino molto sostenuto che possiamo fare senza l'uso dell'inerzia, perché il tapirulan è ovviamente diverso dalla camminare strada. Per strada, perché ha questa inerzia che ci favorisce, quindi ci fa consumare meno rispetto al camminare realmente. Allora, vorrei rispondere anche ad un'altra ascoltatrice che mi ha scritto, mi ha richiesto un aiuto, ma prima, tanto che la devo ripescare, non sono tanto veloce. Mi piace, voglio leggervi un messaggio di un ascoltatore. Mi piace molto camminare a passo svelto con mia moglie, è l'unico momento in cui non riesce a parlare perché ha il fiatone. Non si firma, quindi 800 24 0024, veloce o lenti. Si dice chi va piano va sano e va lontano e forse si allena meglio, ma se parliamo invece di allenamento mentale le cose sembrano cambiare, perché l'attività nervosa richiama alla mente decisioni fulminee, rapide, quindi circuiti super veloci. Il cervello, insomma, noi sembrerebbe, o noi vorremmo che fosse, quasi un bolide di Formula 1. Ma vogliamo saperne di più e quindi in linea con noi abbiamo il professor Piero Barbanti. Buongiorno professore, bentornato. Buongiorno Nicoletta, bentrovata. Primario neurologo all'Istituto Scientifico San Raffaele Pisana di Roma. Essere e benessere. Professor Barbanti, accendiamo i motori, è un bolide il nostro cervello? Sì, però è bene alcune volte che ci sia la safety car, quella che fa un po' rallentare, perché il cervello più efficiente è quello che frena. Noi nasciamo di puro istinto, siamo degli esseri limbici, dal sistema limbico che comporta il nostro piacere, l'impulso e l'emozione, e a 25 anni d'età in genere completiamo la costruzione dei freni. Questa neocorteccia che non solo ci fa frenare, ma facendoci fare le cose con più gradualità, esercita un controllo di qualità sul nostro prodotto mentale. Vogliamo parlare dello stress? Lo stress ha una vedetta che si chiama amigdala. Questa amigdala si strizza rapidamente, quindi grande velocità, di fronte ad un elemento allarmante e libera tante carburante cerebrale, dove però ancora la neocorteccia, il nostro freno, fa un colpo di spugna e dice non vale la pena ricordare e quindi evita i nostri traumi psicologici. Ma soprattutto pensiamo al nostro sistema vegetativo, abbiamo un sistema della guerra che è quello simpatico, pupille dilatate, bronchi dilatati, muscoli scattanti, cuore, pressione a mille, e invece ancora il freno, il sistema nervoso parasimpatico, il più latinoamericano dei nostri apparati, dei nostri, direi quasi brasiliano, dei nostri apparati nervosi, che dice ma chi te lo fa fare, rallenta il battito e così via. Ed è significativo che questo antinomia accelero vai piano c'è anche nel dolore. C'è un nucleo che ha una sigla quasi televisiva, RVM, che è il mestatore del dolore, aizza le sensazioni dolorose ad essere amplificate, ma anche qui e prevale, quindi direi nel cervello ancora prevale l'andare piano, il grigio periacqueduttale, che invece è un pacificatore internazionale, una specie di ONU, e silenzia i focolai di guerra, in questo caso di guerra dolorosa. E poi abbiamo anche, mi sembra, l'attività viscerale che risponde. L'attività viscerale che risponde poi ovviamente al sistema delle nostre emozioni e sulla quale noi possiamo agire per fare un qualcosa di positivo, perché chiunque di noi si sente bene, per esempio la domenica mattina alzandosi, quando si è ancora un po' rintronati, si fa quasi fatica a parlare. È vero, non solo un po' stropicciati dal sonno, è vero. Un po' stropicciati dal sonno. E allora potremmo fare alcune considerazioni e un consiglio finale. La prima considerazione: come insegnare al sistema più veloce del mondo a rallentare? Beh, un po' lo dice lo sport. Stanchiamo il sistema nervoso simpatico. Guardate che paradossi, gli atleti che sparano il cuore a mille in condizioni di riposo sono bradicardici, cioè in loro prevale poi il sistema latinoamericano di controllo dei visceri. La seconda, la tecnica di rilassamento, qualunque tecnica di rilassamento è basata sul respiro, ma riflettiamo bene quanti freni ci vengono consigliati. Viene detto inspirare profondamente e espirare, frenare il respiro e poi espirare lentamente. Il biofeedback, uno strumento per controllare la nostra temperatura cutanea e la nostra contrazione muscolare, riducendole, e infine uno per tutti, lo yoga, che cerca di far prevalere il sistema parasimpatico nelle due braccia attraverso il quale il cervello controlla i visceri. E mi piace concludere con una piccola spigolatura molto divertente. Anche masticare piano fa bene, questo diranno gli ascoltatori, lo sanno anche i sassi, sì, ma lo dico per il cervello, perché una masticazione ritmica e lenta, specie negli anziani, si collega con alti livelli di acetilcolina, che è quella formidabile sostanza per ricordare meglio le cose. Quindi chi va piano va sano e va lontano anche con la memoria, masticazione inclusa. Grazie professor Barbanti per essere stato con noi, per averci fatto fare questo viaggio nel cervello e dintorni. Grazie, buona giornata. Abbiamo intanto il collegamento con la dottoressa Monica Piccini. Dottoressa, siamo pronti? I nostri ascoltatori si sono attivati, ci hanno chiamato per capire un po' il loro profilo e soprattutto dalle sue indicazioni capire se l'andatura che tengono nella vita, nella quotidianità, è in sintonia con il loro essere, con il loro benessere. Intanto però vorrei rispondere a Stelvio, che ci chiama da Vicenza. Buongiorno Stelvio, benvenuto. Buongiorno a voi. Purtroppo sto guidando, però non so se mi sentite. Senta, allora Stelvio, facciamo così. Sono arrivate molte telefonate. Voi continuate a chiamare e prenotatevi, tra virgolette, al nostro centralino 800 24 00 24, perché il professor Tirelli selezionerà una decina di telefonate di quelle che sono arrivate e dalla postazione di nostra, di Essere Benessere, chiamerà direttamente gli ascoltatori e i numeri che lascerete. Dottoressa Piccini, eccoci qua. Abbiamo Giovanni che ci chiama da Ancona, che voleva parlare con lei. Giovanni, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Allora, allora volevo, vista la questione di questa mattinata, volevo capire, che è una cosa che mi sono sempre chiesto, che andare lenti e veloci, giusto? Sì. Il senso. Allora, per quello che riguarda la mia sfera emotiva... Lei dovrebbe rispondere, scusi Giovanni, perché noi sì. abbiamo problemi di tempo. Allora, il ritmo che ha tenuto ieri, veloce, lento, alternato? Lento. Lento. Immagini la giornata come un percorso di gara. Lei che atleta è? Un velocista, un fondista o un ostacolista? Al momento estremo un velocista. Un velocista. Si sente lepre o tartaruga nel lavoro, in amore, con gli amici, nello sport? Qui c'ho una dicotomia, che era appunto quel punto. Sì, allora vada alla dicotomia. La dicotomia è legata alla sfera emotiva, che sono una lepre nel un'iper suscettibilità, diciamo, alle emozioni, e nella vita normale diciamo che riesco a sopportare molto molto di più. Ok. Dottoressa Piccinni. Eccoci. Allora, 30 secondi per fare un profilo, poi Giovanni ci trasferiamo parla su Facebook. Di questa dicotomia molto spesso è presente, no? Una differenza nella nostra modalità di viaggiare nella vita di tutti i giorni, cioè veloci nella gestione e anzi naturalmente ipersensibili nella gestione degli aspetti emotivi, e magari invece più lenti, più tranquilli nella gestione della quotidianità, quindi saper prendere le cose in maniera serena nella vita di tutti i giorni. Invece dal punto di vista emotivo c'è questa ipersuscettibilità. Naturalmente ci dovrebbe essere un equilibrio tra rallentamento ed accelerazione, tra quella che è naturalmente una sensibilità alla parte emotiva che c'è dentro di noi e quella che è la gestione poi di questa sensibililità nel quotidiano. Quindi? Diciamo che quindi la soluzione è stare sempre nel mezzo, che è cercare, un luogo comune, cercare di misurarsi nelle situazioni e trovare una via di mezzo. Esatto. Grazie, devo chiudere emotiva. Dottoressa Piccinni, io ricordo agli ascoltatori di chiamare 800 24 00 24, il professor Tirelli vi risponderà. Grazie alla professoressa Lucini, a voi, a domani. Grazie a tutti. Essere e benessere.